specie di razze nuove, come il millennio che sta iniziando. E questo è l'ombelico del mondo, e noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo. Oh, l'ombelico del mondo. Questo è l'ombelico del mondo, dove non si sa dove si va a finire. E risalendo dentro se stessi alla sorgente del respirare, è qui che si incontrano uomini nudi con un bagaglio di fantasia. Questo è l'ombelico del mondo, senti che sale questa energia. Questo è l'ombelico del mondo. L'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via. Dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando. Questo è l'ombelico del mondo, e noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo. È l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. Questo è l'ombelico del mondo. A bailar.